avranno poi anche. Sì, ciao, delle... ciao Ermelinda, Ermelinda del Movimento Notav, che più volte abbiamo avuto modo di sentire sui microfoni di Blackout. Ti chiederemmo, come già abbiamo fatto con la donna vicentina del Nodam Molin, di intervenire un po' sulla questione sicurezza delle donne nei territori militarizzati, quindi l'esperienza della Valsusa, che cosa significa per voi donne che vivete quel territorio, vivere un territorio completamente militarizzato, vivere la presenza di così tanti militari, poliziotti, carabinieri, alpini e chi più ne ha più ne metta, che attraversano, controllano, presidiano, occupano quotidianamente ormai da mesi il vostro territorio. Ricordiamo poi, tra l'altro, così tra le altre cose, che ci sono state anche tantissime donne notav che sono state proprio ferite dalla violenza poliziesca all'interno delle manifestazioni e delle mobilitazioni, perché come sappiamo, insomma, sono donne ribelli, donne guerrigliere, sempre in prima fila, sono anche quelle che poi le sono state pestate maggiormente. Sì, intanto buongiorno a tutte e a tutti, e grazie anche per questa trasmissione che sicuramente dà un contributo a tutte le donne, anche spunto per tante riflessioni. Tante volte anche noi qui in Valle, essendo così prese dalla militarizzazione, giusto appunto, dal territorio, lasciamo magari poco spazio ad altre tematiche, ma stiamo cercando anche in questo senso di, insomma, di affrettarci anche noi, perché pensiamo che ci sia un legame molto forte tra la militarizzazione dei territori e quella che può essere poi la violenza sulle donne. In alcuni luoghi, come credo sicuramente abbiate già descritto e raccontato, c'è una violenza fisica, di tipo sessuale e fisica, come nel caso della vittima di cui oggi, insomma, si parlerà in questo processo, alla quale va sicuramente tutta la nostra solidarietà, almeno di sicuro da parte di tutte le donne del movimento Notav. E c'è un legame forte tra le militarizzazioni dei territori e la violenza sulle donne, perché noi non abbiamo vissuto molestie di tipo sessuale, ma abbiamo vissuto, simbolicamente molto importante, delle violenze sui nostri corpi, che sono stati i manganelli o addirittura i calci, i pestaggi delle forze dell'ordine durante alcune dei nostri tentativi di impedire l'impianto di trivelle o in situazioni comunque di protesta con forza davanti a quella che è uno scempio del territorio che si vuole perpetrare qui in Val di Susa, e che le donne invece rifiutano in maniera forte, perché c'è l'autoritarismo alla base della divisa e del concetto della difesa dello Stato, un autoritarismo che qui in Valle è vissuto proprio sulla nostra pelle, sulla nostra terra, in quanto pelle di un territorio, è imposto, nonostante appunto la popolazione si sia ribellata in tutti i modi, abbia messo in campo moltissime modalità per esprimere contrarietà all'opera, e le donne simbolicamente hanno usato il corpo. Abbiamo usato il corpo nostro, lo abbiamo messo davanti agli ostacoli che si frapponevano fra noi e quella che era la terra che ci viene rubata ed che ci viene trasformata sotto i nostri occhi, come sta accadendo in Clarea. Credo che l'immagine che è anche stata portata e viene diffusa da noi appena possiamo al corteo di Ravenna contro la CMC dei due striscioni, della Val Clarea prima e della Val Clarea dopo l'intervento e l'inizio del cantiere, sia un emblema della violenza, insomma, che non ha bisogno di commenti ulteriori. Ed è proprio legandoci a questo aspetto qui, che per noi è fortissimo, è forte, dico, questo legame tra sentire la violenza che viene fatta sulla terra come una violenza che viene fatta sui nostri corpi, perché viene fatta e avrà conseguenze sul nostro modo di vivere, sul modello di sviluppo che va a perpetrare, su tutto quello che significherà avere in questa valle questo cantiere, vorrei dire non avere prospettive per il futuro che non siano quelle appunto di avere le guardie intorno a tutto quello che succede senza il volere della volontà, senza la volontà popolare. E quindi proprio per questo ne approfitto per dirlo, stiamo anche organizzando una o due giorni di donne contro il TAV, di donne contro la violenza, di donne notav contro la violenza sulle donne e contro la violenza sulla terra, legandola a quella che sarà la data ormai storica del 25 novembre, noi una settimana prima, cioè nei giorni del 17-18 di novembre, appunto organizziamo una 2 giorni che vorrà essere proprio una riflessione aperta ovviamente a tutti, ma organizzata dalle donne NOTAV, donne in movimento NOTAV, proprio per discutere del legame che c'è tra la violenza sulle donne e quello sulla terra, e anche, diciamo, anche attraverso la denuncia della violenza sul corpo delle donne, denunciare quella che è la violenza sul nostro territorio, e invitare anche attraverso un appello che sta già girando in rete tutte le realtà, le associazioni, i collettivi, insomma i gruppi, le singole che vogliono aderire a questo appello, che appunto denuncia la militarizzazione della Val di Susa da parte delle donne.